E così chiudiamo la posta sera di questo giovedì. Ebbene sì. Molto energicamente con l'Icara Colt, con OneNote. OneNote. Prima ancora Jesse Melin con questi Nagli. Prima ancora Jesus Chain con Psycho Candy. E ancora prima Smith. Smith con What Difference Does It Make? Esatto. E noi con questi bellissimi pezzi e con lo spirito giusto che vi lasciamo alla fine della trasmissione, ma anche all'inizio delle 24 ore delle compagne, insomma, da questo momento in poi, subito dopo di noi, una diretta continua 24 ore su queste frequenze. E allora massima che la forza sia con loro, che noi l'ascolteremo anche noi, non solo stanotte ma anche domani. E buonanotte per Apostasia, a giovedì prossimo. A giovedì prossimo, allora, buonanotte e ascoltate e sostenete sempre Radio Onda Rossa. Good night. Ci siamo. I've hoped enough. You slap me like a wave. Arriviamo, arriviamo. Filippo Di Pierre all'arrembaggio dell'etere, all'abordage. Venerdì 8 marzo imbarcatevi con noi nell'avventura delle 24 ore radio non stop. A bordo donne, femministe, lesbiche, gruppi, collettivi d'ogni dove, redazioni femministe di altre radio, centri antiviolenza, blogger. Lotto, lotta! Unisci la tua voce a quella di tante altre. Partecipa anche tu alla traversata dell'8 marzo 2013. Dalle 24 alle 24. MFLA su Radio Onda Rossa. mfla.noblogs.org. MFLA da 18 anni nell'etere. Entra anche tu nel mito. Yeah. Allora noi la ricevo al 87.9 e sta tornando gli Snake che lo spira di Onda Rossa. My goodness, are there still feminists in Italy? E allora, ci sono femministe in Italia anche a quest'ora? Sì, e anche se non siamo il martedì. Un saluto a tutte le femministe, lesbiche e le donne in Italia a quest'ora, 8 marzo 2013. 6 minuti dall'8 marzo. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. E allora, per la prima cosa dobbiamo dire che qui nello studio ci sono tre bellissimi microfoni nuovi. Nuovi. Dici che l'hanno fatta apposta per noi? E questo, la festa della donna. Ma che bel regalo. E allora, 7 minuti dalla mezzanotte, dalle 00 dell'8 marzo 2013, parte la maratona radiofonica. Quest'anno invece abbiamo detto che non è una maratona, ma è una traversata. Parte la traversata radiofonica per questa giornata internazionale delle lotte delle donne, che dal 1857 scendono in piazza in questo giorno. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are. Saluta un po' le ascoltatrici per questo 8 marzo. Sì, ciao a tutte, benvenute. Come on, be alive again. Don't let Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mufla. Happy birthday to you. Anche Marilyn Monroe, la nota spia comunista, ascolta il martedì autogestito da femministe e lesbiche. MFLA, da 18 anni nell'etere. E qui con PJ Harvey di sottofondo, quando sono le 0:14, i primissimi minuti di questa 24 ore di radio femminista e lesbica che farà compagnia per tutto l'8 marzo, ebbene sì, come avete sentito dagli spot, come chissà chi ci ascolta ogni martedì, questa settimana non siamo andate in onda perché ci siamo lanciate nuovamente in questa avventura delle 24 ore radiofoniche, tutte in diretta, ci tengo a sottolinearlo, attraverso tantissimi contributi da altre compagne sparse per l'Italia che fanno radio femministe e lesbiche, che fanno trasmissioni femministe nell'etere, via web, nel mondo. Infatti stiamo aspettando di collegarci con la rete Nosotras nel mondo, che ci ha ispirato in realtà a questa idea delle 24 ore, perché loro per anni, quest'anno non l'hanno organizzata, ma per anni hanno fatto l'8 marzo appunto una catena tra i paesi dell'America Latina e la Spagna di trasmissioni femministe e lesbiche nelle 24 ore dell'8 marzo. Noi a un certo punto nel nostro piccolo abbiamo pensato, ma perché non lo facciamo anche noi l'8 marzo? L'anno scorso siamo state molto bene, ci siamo molto divertite, è andata molto bene. Quest'anno ovviamente abbiamo detto vabbè, ma sì, dai, rifacciamolo. E quindi eccoci qua in compagnia vostra, speriamo, non 24 ore di seguito per voi, però speriamo che starete con noi il più possibile. Fateci i soliti squilletti, siamo qui, vi ascoltiamo, fateci sentire che ci siete. E mentre aspettiamo di collegarci dall'altra parte del mondo e salutare appunto le compagne dell'America Latina, ci ascoltiamo, ci finiamo di ascoltare PJ Harvey che è in sottofondo. Eccolo lo squilletto, lo vi ho sentito. Buon ascolto a tutte e a tutti. Da 18 anni nell'etere, martedì autogestito da femministe e lesbiche, dalle 17 alle 23 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, martedì autogestito da femministe e lesbiche. Lotto, lotta. Lotto, lotta. 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica non stop. 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra toda forma de violencia hacia la mujer, porque estamos hartas de la violencia machista. Harta frecuencia. Programación especial de Red Nosotras Radio. Presentare un po' questa 24 ore, andiamo a raccontare un po' che cosa succederà. Allora, il 24 ore inizia alle mezzanotte da il giovedì 7 marzo o 00:00 dal venerdì 8 marzo. E brava. Lotta, perché dobbiamo continuamente lottare contro il sessismo, il machismo, il capitalismo, le violenze degli uomini contro le donne, razzismo. Comunque c'è un lavoro continuare a fare in questa società e non ci fermiamo mai. No, infatti noi lottiamo tutto l'anno. Questa volta però abbiamo scelto un modo che ci diverte, ma la lotta ci diverte anche. Sì, comunque la rabbia non si ferma, non è perché 8 marzo e che abbiamo due cose di mimosa che siamo meglio, infatti provano sempre a addormentarci, ma noi siamo sveglie e si continua. Siameremo anche sveglie tutta la notte e dopo questa apertura e il collegamento con Radio Vallecas di Madrid e il contributo di Nosostras nel mondo, continueremo la notte con Ci piace la notte. La notte ci piace. La lotta e la notte ci piace. E che si farà? Si farà dei spazi di musiche, delle letture, proveremo a avere dei collegamenti con lesbiche femministe di altri fusi orari. verso le 2 proviamo a collegarci con Miriam Fugger, che ci racconterà come continua il suo commentario lesbiana e il suo nuovo progetto. Un po' dopo ci collegheremo con Delhi in India, dove una compagna ci racconterà le diverse manifestazioni previste tra stasera e domani, nel giorno domani mattina, domani pomeriggio, e anche il festival di film di donne Asia. E tutto questo ci porterà fino alle 6. Sì, poi dalle 6 avremo, perché è mattiniera, un mattiniero, uno spazio musicale breakfast, un buongiorno, e alle 8 iniziamo la consueta rassegna stampa a cura oggi di a cura del martedì e di una compagna di Zero Violenza Donne, quindi sarà una rassegna stampa di genere. Martedì autogestito da femministe e lesbiche. Eccoci, siamo solo a neanche un terzo forse del palinsesto. Quindi sono due pagine. Sono due pagine, quindi a voglia a te. Insomma, stavamo alla rassegna stampa che faremo come di consueto, fa in realtà Radio Onda Rossa la mattina, però la nostra sarà tematica, avremo ospite tra l'altro una compagna di Zero Violenza Donne che ci aiuterà, loro fanno questo abitualmente sul sito, ci aiuterà con gli articoli, insomma tutto quello che riguarda, che troveremo sulle donne domani nei giornali, ovviamente sarà una lettura critica, ma non c'era bisogno che me lo sottolineassi. E poi, per quelli che si sveglieranno domani mattina, presenteremo ovviamente il palinsesto, insomma, faremo un po', metteremo un po' di musica per una mezz'oretta, cercheremo così di svagarci e di traghettarci invece in uno spazio sui libri, i libri di donne che ci hanno più entusiasmato nel 2012, ad aiutarci a fare questa, diciamo, classifica saranno le ragazze della libreria Tuba. E poi dopodiché avremo il nostro primo spazio, insomma, di approfondimento, comunque un editoriale della mattina a cui poi seguirà una trasmissione di approfondimento nel pomeriggio. Quella della mattina ci vedrà in collegamento. Ah, tra l'altro dobbiamo ringraziare, ora vedendo il palinsesto ovviamente ci rivengono in mente una serie di cose, tutte le radio che stanno collaborando con noi, che tra l'altro rimanderanno in diversi momenti della giornata il segnale delle frequenze di Radio Onda Rossa, e quindi saremo nell'etere, ma non solo, in FM in alcune città, grazie appunto a Radio Blackout per esempio. E anche Radio Onda d'Urto ci rimanderà in alcuni orari, saremo su web oltre che attraverso il sito di Onda Rossa, anche attraverso le radio web di Napoli, Radio Di Massa e Radio Lina. Bravissima, poi ci siamo dimenticate, lo so che le nostre ascoltatrici lo sanno, che da quest'ora fino alle 24 di domani ci potete chiamare allo 0649 1750 e ci potete scrivere a mfla@ondarossa.info. Intanto ci ha raggiunto anche Marta. Ciao. Che figo, bello, tutto bello. Aspettavo questa mezzanotte, eh. Da oggi che cominciamo ad assaporare, perché poi appunto non essendo la prima uno già sa un po', no? E allora riempiremo pure questa notte, adesso poi appunto si riverserà qua. Va giusto lei stanotte. E invece siamo un po' che ti credi. Lo so che siete un po'. L'anno scorso ci siamo divertiti un sacco, Silvi sei testimone. Vero, ricominciamo. E quindi, nel salutare le altre radio, vi stavo raccontando dello spazio che ci sarà domani mattina tra le 11 e le 12 e mezzogiorno. Ci collegheremo con il collettivo femminista Medea, che appunto in diretta da Radio Blackout ci presenterà il dossier Fare le italiane su donne e fascismo, e oltretutto ci permetterà di stare in collegamento con il maxi processo Notav che si tiene proprio domani mattina. Poi torneremo in radio Onda Rossa, cioè torneremo tra noi in studio a Roma per uno spazio dalle 12 alle 13, libere di scegliere e capaci di reagire. E questo è lo spazio di approfondimento curato insomma dall'MFLA, le nostre lotte con altri compagni ovviamente, le nostre lotte contro la violenza degli uomini sulle donne, dai presidi sotto il tribunale dell'Aquila alla manifestazione Difendiamoci dei difensori di Bologna. Ovviamente non saremo solo noi ai microfoni, sarà molto vaga, la trasmissione. Sì, e poi continueremo con dall'una all'una e mezza uno spazio dedicato allo spazio di femministe e lesbiche, il 22 di Via De Volci, il 22 che resiste e si organizza, e quindi le compagne ci racconteranno la lotta contro lo sgombero dello spazio liberato e ci racconteranno anche le loro iniziative, quindi il laboratorio creativo. Dalle 13.30 alle 15.30 abbiamo dedicato uno spazio alle altre compagne che in giro per l'Italia fanno radio come loro pratica come politica, noi. Come noi, su altre radio. E per cui vi manderemo in onda una trasmissione appunto a cura delle compagne di Radio Massa, Radio Web di Napoli. Stiamo ancora aspettando il file. Poi ci collegheremo con una compagna di Radio Cane che ci racconta il progetto Margherita, e vi faremo ascoltare anche l'audio di che cos'è Margherita, dove va in giro nel tempo Margherita. Poi abbiamo un contributo di una compagna spagnola di Valladolid, Bea, che salutiamo, ciao, con Asia al Sur e nell'Atlantico, se non sei femminista che aspetti? E concluderemo questo spazio con una trasmissione a cura delle Beate Lesbiche, che è una trasmissione del Pianeta Viola che va in onda, mi sembra proprio il venerdì, su Radio Onda d'Urto, e il titolo del contributo che ci hanno preparato è Rosa o Azzurro, viaggio nella letteratura non gender per bambini e bambine irriducibili. E calcolate che siamo solo alle 3 del pomeriggio, 3 e mezzo del pomeriggio. Dalle 15.30 alle 16, Io sono lei, i generi sessuali nella letteratura per l'infanzia, è un gioco di spunti e liberi collegamenti sul tema della costruzione dell'identità di genere, a cura di Leila e di Sara, Discosse. Dalle 16 alle 19, Donne senza confini né frontiere, che è uno spazio di approfondimento dell'MFLA e del collettivo femminista Medea di Torino, in diretta da Radio Onda Rossa. Intro sulle alleanze transazionali tra femministe, quindi poi ci sarà il collegamento telefonico con una compagna dall'Egitto sulle lotte delle donne contro gli stupri di Stato e della situazione delle donne sotto i fratelli musulmani. E in diretta da Radio Blackout ci sarà un'intervista a delle attiviste curde. Quindi avremo un collegamento telefonico con le donne palestinesi del Fronte Popolare di Gaza e un'intervista ad una compagna greca in Italia per la campagna di solidarietà con le donne greche per il diritto alla salute, lanciata dalla rete Donne nella Crisi, in diretta da Radio Onda Rossa con le 25.11 di Milano, dove sono i tunisini dispersi dopo l'arrivo in Italia. Quindi le donne rom e il carcere e Nocie e con donna nigeriana. E quindi questo è un lungo spazio di ben 3 ore che appunto è curato da due collettivi che fanno radio, MFLA e Medea di Torino, e ci rimanderemo a vicenda il segnale. Ci siamo divise così i contributi come vi abbiamo presentato. ci sarà anche con noi le compagne di che hanno anche fatto radio e che fanno radio qua, Sonia, Giulia, compagne di Radio Onda Rossa, che vengono per alimentare questo ampio argomento di come creare le solidarietà, le alleanze transnazionali o internazionali tra femministe. Prima di arrivare alla sera ci ascoltiamo una canzone. J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisante. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop vivantes. Entre les murs d'une cellule glauque ou sur le dos d'une étoile filante, je suis parti loin de chez moi où m'a-t-on emmené de force. J'ai traversé mes peurs une à une de mon zèle de gosse. J'ai soulevé des montagnes même sous le ricanement de l'autre. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait des crétés, que ce monde pourri serait ainsi qu'on ne pourrait jamais rien y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient d'un signe. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorties en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant l'éclipse. Sans bouée de sauvetage, je nage dans l'immensité de la live. Pente sèche sous son message que j'oublie pas de sonner mes palabres. Si je suis pas là, c'est que je me balade. Veuillez silo sur le champ de bataille. Donc les mythos et leurs plans de bâtard. Moi aussi, Babylone m'a rendu malade. J'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts. Continuiamo il palinsesto di questa traversata dell'8 marzo. Però prima diciamo che cosa stavamo ascoltando, l'avevamo vero, promesso. Ascoltando Kenny Arcana, il suo ultimo album, Tout tourne autour du soleil, J'ai osé, era il titolo della canzone, osato, dice osato credere nei miei sogni, come noi. Ce l'ha preso, ce l'ha rubato questa cosa là. Vabbè, allora si è ispirata a noi. Sì, sì, sì. Ma tutte si ispirano a noi, questo l'abbiamo visto, anche Marilyn. Vabbè, allora, dalle 19 alle 19.30 di oggi ci sarà con noi l'Assemblea delle Donne dei Castelli in studio. Alle 19.30 e fino alle 20.30 uno spazio, l'8 tutto l'anno, uno spazio dedicato alle mobilitazioni per l'8 marzo. Avremo collegamenti dalle poche piazze italiane in cui le compagne scenderanno in piazza oggi, Palermo sicuramente, probabilmente anche Taranto, due collegamenti con le compagne del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario, poi da Barcellona una compagna che ci racconta le giornate femministe autonome, proprio oggi hanno fatto un'azione. Come si dice? Un'azione? Si dice in spagnolo? Vabbè, contro il caro dei trasporti pubblici, entrata. Una colada? Che l'ho detto che lo spagnolo è la mia seconda lingua. Una colada. Flash mob. Vabbè, insomma, hanno fatto entrare le donne gratis nella metro. Ci collegheremo poi con Madrid e di nuovo con New Delhi per il racconto di che cosa hanno fatto. E poi sicuramente marzo. Se ci siamo perse qualcosa in Italia potete chiamarci in diretta e raccontarci dove siete, cosa state facendo. 06 49 17 50, passate parola anche nel corso della giornata. Noi siamo qua, i microfoni, il megafono della voce delle donne, quindi chiamateci se state facendo qualcosa, perché magari noi ce la siamo persa. Dalle 20.30 alle 21 in studio con noi le compagne del Centro Donna Lisa. E di seguito all'orario consueto, così si dice, il CLR, Coordinamento Lesbiche Romane, ci propone oggi il mio 8 marzo più significativo. Alle 10, fino alle 10.30, una autoproduzione femminista, presentazione di frammenti di autocoscienza del collettivo femminista e separatista Benazire di Verona. Presentazione di Scatenate, opuscolo di donne, su donne e lavoro e non lavoro del MFPR. Alle 22.30 fino alle 23 vi faremo ascoltare alcune poesie comiche lesbiche di e con due grandi comiche toscane, Elena Rossi e Angela Soldani. E si conclude la traversata con l'arrivo al porto, l'ultima ora in compagnia di noi, di MFLA, le saluti al Kesbile, che forse potrebbe essere il porto per chi vuole fare qualcosa domani sera, e alle donne del Laurentino in festa. Altro porto. We'll be right back. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotta, lotto. Questi erano gli stacchetti musicali che usavamo l'8 marzo dell'anno scorso, ma quelli sono sempre attuali, quindi abbiamo deciso di tenerli. Abbiamo finito con la prima delle nostre varie letture che durante le 24 ore vi faremo del palinsesto, ma se siete curiosi e ve lo siete perso, vi ricordo che sta sul nostro blog, proprio lì davanti, in... è il primo post, quindi se lo cercate mfla.noblogs.org c'è tutto il palinsesto con tutto quello che accadrà in queste 24 ore. Vedi che poi ridi e scherzi, in realtà sono già le 0:45 perché non sembra, poi la radio ti prende, le canzoni vanno e il tempo passa. Marta sa qualcosa, non è convinta. Dai, su, devi solo arrivare alle 6 di questa mattina dove poi ritroverete me, tra l'altro. Come voglio, questo è... No, scherzo. Vabbè, insomma, te l'ho detto, te lo ripeto, per me fare radio di notte, se si può fare, tranquillissimo. Io per domani lo posso fare, poi mi posso permettere di dormire. Se no, ecco, diciamo anche che casomai ci avrei pensato due volte. Poi c'è una fantastica compagnia, dai, lo devo dire. E quindi invece va bene così. Se no, scusa, come facevate? No, spiegami. No, infatti, noi abbiamo chiamato alla raccolta. Poi casomai ci sono le cose che non sa fare mai, mettere la musica. E quindi uno dice, vabbè, do una mano così, ognuna si arma per certo, quello che può. Infatti, esatto, si arma perché ricordiamo che siamo all'arrembaggio quest'anno. Infatti siamo armatissimi, di là stanno taralli, cioccolata, vino, birre, non acqua, si svelano i segreti, la radio è bella segreti? Per quello. Ma chi ci sente lo sente proprio da... che voi mangiate dalle nostre lingue più o meno pappose fino al delirio di quello che puoi arrivare a dire. No, comunque, vabbè, scherzi a parte, invece appunto è proprio bello casomai anche appunto dormire quelle ore di meno, però insomma io credo che dopo l'anno scorso questa maratona ha lasciato molto il segno, no? Un sacco di persone anche che casomai uno pensa meno vicine, di donne che uno pensa casomai meno vicine, ha detto, ah, ma anche l'anno scorso l'avete fatto, vero? E io credo che comunque è un'ottima tradizione che si sta aprendo, cioè è una cosa bellissima, e è stata bellissima l'idea che abbiamo preso, non a caso appunto credo che rappresenti un po' la sintesi delle relazioni enormi che poi appunto casomai non con una frequenza quotidiana, però che comunque il martedì ha coltivato in tutti questi anni, no? Un sì. Segno che c'è, ormai lo sanno tutte. Sì, la cosa che non si sa ancora è che si prepara il 24 ore di presidio per l'anno prossimo. Vabbè, adesso non glielo dire ancora che abbiamo appena cominciato. E un'altra cosa bella è che questo esperimento lo stiamo esportando, perché anche su Radio Blackout, esatto, ci sarà una diretta dalle 10 alle 20 come minimo domani. Piano, perché, piano. E poi mi sembra che comunque basta andare là e esatto. Piove e la quantità di collaborazione, no? Comunque, infatti anche lo spot era stupendo, rendeva molto l'idea, no? Si parte tutte che di corsa, io ho questo, faccio questo. È proprio un'esplosione bellissima. Che poi è proprio quello che è successo quando abbiamo lanciato in rete la proposta di collaborazioni e ne sono arrivate a migliaia. A trovarsi in difficoltà a farcela entrare, no? No, infatti sono rimaste fuori. Qualcuna è rimasta fuori, ma di privilegiare, vabbè, insomma, diciamo, comunque, le compagne, ecco, che di solito non trasmettono da questi microfoni, certo. E invece le trasmissioni usuali del martedì ritorneranno nei martedì, insomma. E comunque qualsiasi cosa dovessero slittare i tempi, qualsiasi cosa, contributo che abbiamo e che non andrà in onda in queste 24 ore, sicuramente poi andrà in onda. Ci saranno i martedì. Nei successivi martedì. Faremo i post. A proposito, oppure comunque la 24 ore l'anno prossimo la facciamo di 48, tutto, capito? Il weekend. Due fine settimana, non lo so, capito? L'8 e il 16. L'8 e il 9, visto che saranno di sabato e domenica. No. Vabbè, non possiamo anticipare. No, già sei troppo avanti. Restiamo su questo 8 marzo. Restiamo alla 00:50 dell'8 di questo 8 marzo appena cominciato, proprio perché lo citava Marta, rimettiamo lo spot e poi forse sentiremo più o meno, stiamo qua quasi per metterci in collegamento con le nostre compagne. All'arrembaggio dell'etere. All'abordage. All'altra parte del mare. Marzo, imbarcatevi con noi nell'avventura delle 24 ore radio non stop. a bordo. Donne, femministe, lesbiche, gruppi, collettivi d'ogni dove, redazioni femministe di altre radio, centri antiviolenza, blogger. Lotto, lotta! Unisci la tua voce a quella di tante altre. Partecipa anche tu alla traversata dell'8 marzo 2013. Dalle 24 alle 24. MFLA su Radio Onda Rossa. MFLA.noblogs.org. MFLA da 18 anni nell'etere. Entra anche tu nel mito. Lotto, lotta! Lotto, lotta! 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica, non stop! Allora, siamo al telefono con una compagna della Red Nosotras en el Mundo, finalmente. Hola, Susi. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo está ahí? Bien, bien, muy bien. Un poco nerviosa porque las estoy escuchando y me emociono. Ya quiero poner algo de música, quiero decir algo, quiero... Bueno, con todo que tú eres una mujer muy radiofónica, ¿no? Con todo que comunque tú seas una dona que labora en radio. Sí, sí, sí, es verdad. Además... yo me despierto con la radio, me voy a la cocina con la radio, me duermo con la radio, bueno, vaya. Prima stavamo dicendo che questa idea della maratona un po' l'abbiamo presa proprio dalla Red Nosotras, che ci ha dato questo input. Copiamo un poco l'input del Red Nosotras qui in Italia, in Roma, por hacer esa maratona, ¿no? Fue un poco una idea que dieron, nos dieron ustedes, ¿no? Es una idea muy grande de colaboración con todas. Y usted ya tiene una red muy grande, ¿no? Voi avete già una rete muy grande en la vostra, appunto, l'idea della maratona l'abbiamo presa da voi, e voi avete già una rete grandissima di donne. Sí, bueno, después de ese maratón, otras compañeras, es verdad, alguna otra compañera hizo un maratón el día 25 de noviembre, bueno, ustedes ya llevan dos del 8 de noviembre, y en otras fechas, pues las con las compañeras de Red Nosotras, que estamos en Argentina, en El Salvador y en Madrid, pues pues siempre contribuimos, ¿no?, a hacer algo algo especial. Y nuestra red Nosotras Radio, pues ahora mismo tiene 50 programas de radio feminista, así que lo hacemos todas, vaya, que cada una aporta un espacio feminista. Sí, dunque appunto loro traduzco un poco. Allora, sono tante le marce ormai che si fanno un po' in giro per il mondo, rispetto anche alla rete Ganno c'è stata una marcia il 25 novembre, l'8 di novembre, insomma sono diversi anche i momenti in cui si inventa questo tipo di comunicazione. In più la Red Nosotra, che ha programmi ormai tantissimi, quasi 50 programmi che si dividono, che ognuna in cui ognuna collabora e che riescono a essere messi in piedi, sono tra l'altro la Red Nosotra, che fondamentalmente sta in Argentina, nel Salvador e a Madrid. Anche esta otra compañera muy tímida, ¿no? sí, aquí también tú una pregunta que te voy a hacer, porque usted está en España, pero yo creo que también en Argentina hay muchos temas que unen las mujeres alrededor del mundo, ¿no? Qui come a Madrid, come in Argentina, poi ci sono delle tematiche che trasversalmente attraversano tutte le donne del mondo. ¿Cuáles son los temas en que más se encuentran a hablar y a confrontarse? ¿Cuáles son i temi su cui più vi trovate insieme più spesso? Bueno, sigue siendo el tema de la violencia. Bueno, ahora hablamos de las violencias en realidad, de género, todo aquello que le impide a una mujer seguirse desarrollando, seguir teniendo acceso a diversos recursos, a tener derecho a ser independiente económicamente, en fin, hablamos ya de las violencias en general, la violencia estructural, la violencia institucional contra las mujeres. Ese puede ser un tema que sí que sigue siendo recurrente. Si quieres empezamos por ahí y luego sigo. Va bene. Allora, chiaramente il tema della violenza è quello che è più ricorrente, poi chiaramente legato a questo ci sono anche il tema di come la donna poi può creare la propria autonomia, quindi diventare indipendente autonoma e quindi slegarsi anche da tutta una serie di obblighi che la società impone e ad affrontare tutto questo. Però comunque il tema della violenza è quello più ricorrente sicuramente. Sí, eso, y el aborto, ¿no? El aborto nuevamente, pues en América Latina, de las legislaciones que siguen sin tener esa prioridad, y en el caso de Europa, pues en el caso específicamente de España, el ministro de Justicia prepara una ley contra, bueno, echando atrás lo que se había avanzado en la última modificación de ley. Y estamos, bueno, estamos preocupadas, pero también estamos muy activas para que eso no suceda, ¿no? Para que no vayamos para atrás. Sì, dunque chiaramente un altro dei temi è quello dell'aborto, perché comunque la situazione in America Latina è ancora abbastanza assolutamente arretrata e sono pochi comunque i paesi dove anche con molte limitazioni si può ricorrere all'interruzione di gravidanza, e in particolare in Spagna tra l'altro si sta preparando, l'attuale ministro della salute sta preparando una legge che torna molto indietro rispetto a quelle che erano state le ultime modifiche della legge che è in atto oggi. Yo he visto también que en la página web de Red Nosotras en el Mundo habla muy claro, de manera muy directa, cosas muy prácticas sobre la salud de la mujer y la posibilidad de autocuidarse, ¿no? Sul sito di Nosotras en el Mundo c'è molto chiara tutto un tipo di informazione molto diretto e molto pratico per, diciamo, autocurarsi, la pratica la pillola del giorno dopo, insomma è molto approfondito. Sí, ante esta etapa de crisis del capitalismo, ¿no?, que vivimos y que vivimos especialmente las mujeres, ahora mismo volvemos a retomar pues nuestras sabidurías, ¿no?, del buen vivir, que también digamos que tomamos más bien ejemplo de las culturas ancestrales, ¿no?, de América Latina, de Oriente, en fin, de Asia, ¿no? Y creo que queremos volver a eso porque creemos que es parte de la supervivencia, ¿no?, de la supervivencia ante esta locura de consumo que no tiene sentido. Eso por ahí, y luego también ideas basadas en la economía feminista, ¿no?, de cómo